generale, c'era già la Mantova, c'era, perché io sono stato il primo ad abitarci con Baracchino. Quindi hanno fatto, cominciato a fare riunioni, hai capito, la prima volta che sono dice il primo disturbo, immediatamente Baracchino, hai capito, hanno fatto di tutto per farmi io. Mi hanno detto, dice, se vuoi parlare con Baracchino, dice che scappa in casa, mi hanno risposto, hai capito. E te ne vai con Baracchino un'altra parte. Quando io poi sono andato ad abitare via San Donato, in corso Vittorio Emanuele, hanno preso sette sopra, al tetto mi hanno tagliato le gaffe, mi hanno tagliato gli originali. Hai capito? Adesso io sono agganciato alla gaffa della parabola. Quindi se mi va a Baradutto, ecco perché ci ho messo i tiranti, se no il tirante prima non ce n'era, ce n'è paura, acqua e basta. A te, se ne avevi tagliato le chiavi a me, ha diritto prima di tutto l'aveva denunziato da via. E poi gli avrei detto, adesso vai per via legale, vai come il cazzo vuoi. Scusa la frase. Fai come vuoi. Vai per via legale, mettiti l'avvocato, fai quello che vuoi, ma intanto io l'antenna rimane. Se io sono arrivato, come stai dicendo tu, se sei arrivato il primo, mi aveva detto, ma cavolo, vinci, ti mandi tu, ti mandi, non mi mando io. A che tanto io? Se mi mandano una qualunque, posso mettersi in corso? Forse. Ma è tranquillo che la privessa l'antenna e i cavi non avrebbero tagliato, perché quello che avrebbe tagliato il cavo l'avrebbe denunciato e non solo di pagarmi il cavo, ma mi aveva pagato pure tutti i cavi per i danni, mi aveva pagato. Vai tranquillo, perché se tu vedi bene certi regolamenti dei CB, vai tranquillo che non è facile che non ti rivolgi neppure l'antenna. Non so, ma quel periodo lì, sai cos'era il problema? C'era mamma viva, ma morta tanto, quindi cominciamo, ma così così mi hanno tagliato i cavi, adesso io li uso, lascia perdere il figlio mio, non voglio avere casini del condominio, eccetera, eccetera, capito, l'ho dovuto farlo per mamma, se no io a quest'ora mi sarei fatto rispettare, invece ho dovuto abbassare la cassa per comprare mamma e babbo, tutto io. Hai capito cos'era il problema? Purtroppo era così, oramai la prassi era quella, ma fa culo. Poi quando l'ho fatto la facciata, l'ho preso e mi ha tagliato le gaffe, dice se un giorno si è permesso il capo con nome, c'è anche il mio fratello qua, Giampiero, dice se tu sei parola della massa l'ha detto a me, ha detto forse non ha capito un cazzo, l'ho risposto io, questa è la massa della mia, gli ho detto, è stata a me, non a te, gli ho detto, qui c'è la frittuaia, gli ho detto, quindi da qui tu se ne deve andare. E quindi faccio quello che mi cazzo mi pare e piace in casa mia. Mi dice questa è la vera, fai quello che cazzo ti pare, gli ho detto. La concessione è questa, già ce l'hai, gli ho detto la fotocopia della concessione, quindi ho detto installo quello che voglio. Allora lì, mi ha detto un giorno, dice fai quel cazzo che ti pare ti piace, è stato zitto, piazza quello che vuoi, non voglio sapere niente, mi ha detto. Ma è così, no, io quando sento certa gente di Sassari che hanno problemi per fare un'antenna, fare questo, quest'altro, sì, con il mio là, sì, sono d'accordo, cioè, se io sono un tipo ospite, perché quando io pago l'affitto sono un ospite, lì sono, e basta, ma ci sono padrone, proprietario di un appartamento, il villaggio Bagada ha unitamente, non faccio quello, non metto quello che voglio sul tetto, ma chi l'ha detto? Sul terrazzo, ma chi l'ha detto? Ci metto tutto quello che mi piace, ci metto. Non mondezza, ma come antenne, ce li metto, come se ce li metto. Tu immaginati che io avevo la direttiva a due elementi caricata, che era lunga 4 metri da parte. Me la aveva regalata Mario, bravo Ciale me l'aveva regalata, anzi Mario, Elio me l'aveva regalata. C'avevo il garizzetto, quando sono venuto qui l'ho portata qua, dopo mi ma cosa mi ha detto, dice se piace questa ti butto fuori di casa, ma adesso. Allora ho preso e ho chiamato uno e gli ho regalata, nuova. figurati. Guarda, l'unica cosa che mi sono pentito, la verità, è di essere venuto qui a abitare, perché se fosse stato via Rizzetto questi problemi non c'erano stati, perché c'era il quinto piano che abitavamo noi, tutta la famiglia completa, in più c'era la mansarda che era, se non mi ricordo male, 25 metri quadri, una cosa del genere, e facevo tutto quello che volevo, salivo sopra il tetto, mi stavo con le antenne che volevo, mi entravo i cavi che volevo dentro l'appartamento. L'unica cosa che ha disturbato la TV, quei periodi lì, vabbè, pazienza. Quindi, allora, mamma ha preso e quando ci ha preso i soldi ha preso e ha comprato qua. Prima l'appartamento, poi ha comprato la mansarda e lasciava a me per il baracchino. Esclusivamente solo per quello, capito? Ecco. Purtroppo la gente parla, mi ha fatto sciare. Guarda che io, il primo periodo che ho messo lo baracchino qua, ma a me mi hanno chiamato i carabinieri, mi hanno chiamato anche due o tre busse, e non me ne frega niente. Mi chiamavano i carabinieri, dicendo io, aspetta, c'è l'autorizzazione per fare tutto questo, non vogliamo arrivare oltre. Il gruppo che vuole arrivare giù, faccia quello che deve fare la giusta, al carabinieri, faccia quello che deve fare, io sono in regola, poi vediamo che appunta. Ah beh, quando si vediamo che la spunta, quello c'è in regola. Proprio per condominio così, sapete questo è un casino, questo condominio qui, è un togliamine di qua, in questo palazzo, capito? E quindi adesso portiamo le conseguenze. Oh yeah, dimmi, ciao qua. Ciao qua. Sparita. Ogni condominio è così comunque. Si tentano sempre, carità. E poi vai a controllare, sono gli impianti TV loro che sono messi male. Io te l'ho raccontato, Fra. Che una sera, anzi più di una sera, posso andare? Sì. E mi ero appentato in tutti i modi cercando di fare TVI alla mia TV, no? Cioè abbiamo due antenne, provando a togliere il filtro e nulla, mettendo amplificato e nulla, mettendo lineare, nulla. Ho provato in tutti i modi, ho controllato tutti i canali, ho chiesto a mamma, niente, non c'era modo di disturbare la mia TV. Quindi come vedi, se l'impianto TV è un'opera d'arte in piano TV, non puoi disturbare. Chi prende disturbi sono quelli che hanno tutte le antenne o cavi con l'acqua dentro, o la scatoletta, il miscelatore tipo acquario, con l'acqua dentro. Marco, quella gente lì, quella gente che hanno le antenne marce, queste cose qua, io lo penso, Marco, perché io quando ti ha fatto questa antenna adesso, io ce l'ho, quanti anni ce l'ho, non mi ricordo neanche quanti anni ce l'ho, sono 3-4 anni, 5 anni, non me lo ricordo, che ho ripreso. La prima cosa che ho fatto, l'ho controllato se ci facevo TVI. Dove l'ho messa prima, l'antenna che ho avuto prima di recupero di fortuna, l'antenna UZ, fatto per cominciare, e avevo recuperato da un amico, e ho preso questa antenna e mi faceva TVI, però era anche bassa. Poi cosa ho fatto? Mi ho procurato il palo da 6 metri, tubi innocenti, mi ho fatto le staffe, me le ho murate al muro, poi ci ho piazzato tutto quanto. Allora, non è che sono stato lì a piazzare di nuovo quell'antenna di fortuna. Ho preso, ho entrato su internet, ho ordinato l'antenna, la montava turbo, l'ho ordinata, è arrivata, l'ho piazzata, micidiale, l'ho tirata 6 metri su, più in alto molto delle antenne di TV, non ha fatto più TVI, per nessun motivo, neanche con la patente, ha fatto TVI, e tuttora non fa TVI. È così, anzi ti dirò di più, che proprio in questi 2-3 giorni di prove ho chiesto anche al padrone del terrazzo, no? Quello dell'ultimo piano che ha comprato il terrazzo dove io entro, no? A Piazza pensare la cosa, ho detto, ma per caso avete avuto disturbi, avete visto male la TV in questi giorni? Ha detto no, nulla, ci vedeva tutto benissimo, e c'ha l'antenna attaccata alla mia del baracchino, solo che la mia giustamente quella del baracchino è più in alto di tutte le antenne TV, capito? Quindi come vedi, se l'impianto TV è fatto bene, non ci dovrebbero essere problemi di sorta. Invece nel caso di Natalino cioè bastava un watt, niente, gli spariva tutto, quindi vedi. E comunque c'è gente che non lo capisce, ma nemmeno con le vie legali lo capisce. E a quel punto bisogna fare il TSO, capito? Volevo chiedere se c'era Giovanna ancora, forse ha chiuso. Giovanna, ci sei? No, c'è ancora Paolo, volevo salutare il e io Giovanna, e anche perché poi non senti Franco un po'. Dai, già sentiamo migliori occasioni, ok, dai, buonanotte, sono Idoro, alla prossima. Vai Antone. E io, ciao Giovanna, buonanotte, a domani. Non c'è problema. Avanti, Franco. Ecco, perché io non so se mi ascolta. Comunque, buonanotte, buon tutto, dai, ce la ascoltiamo. Cioè, ce la ascoltiamo, è la parola grossa da parte mia. Dai, speriamo che riesca a mettere un'antenna più confortante, dai. Io ciao Giovanni, infatti mi ha detto Franco che non ascolti, senz'altro. Franco, ha saltato Giovanna, mi ha detto buonanotte. Ehi, buonanotte, non mi ascolta lì? No, non ti ascoltano, è un... Sì, sono quelle palazzine davanti che mi hanno costruito, capito? Se non c'era stata quella voglia che la sosso l'avrebbe sentito tranquillamente. Da quando mi hanno costruito queste palazzine, a me, quelle di prima del quadrato, cazzo, sono tappato, perché sono più alte di me di due piani. Mi hanno buttato giù proprio tutto, guarda. Non si vede, prima si vedeva Sosso, Bratavona, la Riviera. Adesso tutto un troiaio è diventato. Vedo solo palazzine, camera da letto, bagni, tutto, no? Sembra che spiagge come prima. Ecco. Guarda bene se mi ascolta adesso. Ok, mi ascolta adesso? Giovanna, l'ascolti adesso. Capo, guarda bene se mi ascolta adesso. Magari sarò da te e sarò più sciatto, lo vai. Ascolti Giovanna. Se ti ha tirato le femmine, sai come lo ascolta Franco di Sosso? Cazzo, ti arriva, se è sparato, come un sicuro ti arriva. Che bella la tua collo, bella l'occhio, una la testa, un po' con la scuola, vabbè, allora, ci vediamo domani allora. Ci sentiamo domani, Giovanna, buonanotte, buon tutto. Franco, non ti sente come... Vabbè, sta usando il tornado adesso. Se avessi usato l'altro apparecchio, quello professionale, ti avrebbe sentito tranquillamente. Perché l'altro in FM è come avere il chemo, tale uguale, preciso, già lo sai di cosa sto parlando. Ehi, capo, sto puntando un po', sto usando tutto il fondo, sto usando. Esce l'abbasso un po'. Ok, dai, lo tengo così, lo tengo. Sto usando K, sto usando con l'MC60. Giovanna, ti aggiungo l'857D, figurati tu se non ti sentirebbe in FM. E la stessa identica cosa, in FM sono omicidiali. C'hanno una eccezione di lusso, c'hanno. Sì, probabile in FM, sì. In FM, sì. E qua è un po' difficile, dai. Io ho tirato 100 watt adesso, li ho tirato, infatti adesso l'ho abbassato. Ehi, me ne sono accorto. Ho avuto anche io il tempo sopra. La verità. Già sono dei belli apparecchi. Vabbè, ormai sono... la vecchia, capito? Bisogna pigliare roba nuova, bisogna comprare. Ce ne sono tanti cinesi, cazzo, su internet. Sai quante ne ho visto? Ma belli mica, ne ho visto uno l'altro giorno. tutto un misuratore di campo, non costa neanche molto, mi sembra costa 400 euro e mezzo. Capo. Sì. No, ma questo funziona benissimo, funziona, è una bella radio. Anzi, per quello che funziona, anzi, proprio bene. È l'unico, ne ho avuti video di questi qua, di Sio Tanto, ma come questo, non ho trovato neanche uno. Sì, ho avuto anch'io Sio Tanto, il primo, che ha avuto, scusate, vi rizzetto, vi parlavo tranquillamente, ecco, allora, sì, vabbè, c'era il CB, dopodiché sono il Parigi, dopo 5-6 anni, che è nato cominciato i telefonini, i computer, smartphone, fino a ti sentivo Villacido, in provincia d'Italia, di Verizzetto, con la Grand Prix, Santiago 7 vi sentivo, e loro sentivo la me, tranquillamente, con 100 watt. Poi da lì sono venuto a abitare qui e l'ho usato qui con la Mantova. E da lì non ci sono più andato. Capo, avanti Marco lì. Ma partito a raggio con l'alimentatore mia, questa ventola maledetta in te. La mia ventola invece fischia, quella del cinese, sempre che simile sembrava aereo, sembra, quando l'attaccavo qua in salone, era una cosa allucinante, con questo microfono qui mi tutto si intendia. Anche il mio adesso sta diventando un po' rumoroso, quello da 40 ampere. Infatti lo devo riaprire e pulirlo un po' col compressore, per l'aria bassa, e pulirlo un po', perché mi sta un pochettino rompendo le orecchie. Lo so. C'ho quello a 50 ampere qua, il cinese, non l'ho mai usato, ce l'ho conservato qua a casa. Quello che c'è da Giovanna era 20, l'ho attaccato all'857B e... Già va, però almeno quando c'è il microfono normale non si sente, capito? Però quando lo usavo qua su, in mansarda, in salone, e si sentiva più la ventola che il microfono, cioè che io che parlavo al microfono. Allora preso, l'ho tolto dall'alimentatore dentro la camera e ci ho parlato qui in salone. Allora ti... via. Guardate, io ne ho uno a 30 ampere di quelli, dei cinesi, uno a 30 ampere. Quando lo accendo è bello silenzioso, ma tranquillo, come schiaccio il PTT, che cazzo di... calmati, una moletta basta. E così fa il mio, è uguale, è che assorbe le piume. Marco, tu di quello che hai inventato lì c'hai? Come Antonè? Se c'hai di quello che hai inventato lì come quello che c'ho io, cinese, cazzo, che quando schiacci il portante comincia a prendere i giri, sembra il turbo della macchina, cazzo. Ehi, ma infatti io, porca miseria, avevo quello a lamelle, preso la GBC, alimentatore classico, mi pare fosse 5-7 ampere, ma cosa reggeva? Comunque reggeva, fino a 30 watt li reggeva, però porca miseria, si è rovinato, magari una fesseria, pazienza, vediamo se si può aggiustare. C'è anche Franco così, ma quando schiaccia ha detto sembra che prenda il volo l'aereo. Ehia. Sì, qua vabbè, quando era nuovo questo alimentatore era più silenzioso, questo switching, no, la ventola, poi la ventolina, sai, come invecchia, quindi adesso sta facendo mamma mia, poi smette, poi dopo un po' gli viene l'attacco improvviso, no? E di notte fa un casino. Pazienza, vediamo cosa c'esce, e che costano quelli a lamelle, no? Gli alimentatori classici col trasformatore costano un saccaggio di soldi e danno pochi ampere. Riprendi Franco. Sì, non è così, dai, costano sacaccio di soldi, ma non è che danno poco ampere, ci sono quelli da, anche da 50, quelli transistorizzati, e sono bellissimi, sono, io ne avevo uno, anzi ne ho ancora uno, e sono capidurici che è micidiale, e tiene più di quello che è da ampere della Switch. Cioè tiene più, non tiene più, ma fa meno casino, non fa nessun casino, fa quello là, e solo che non gli puoi attaccare tanta roba, non gli puoi attaccare come questo che ho qua a 40 ampere, però ti dico che sono mezzo toccato a prenderne uno da 50 di quei vecchi. Adesso ti faccio un esempio, Fra. Allora, la GBC, questo mi pare o 6, 8 ampere, o 5, 7, no, 5 normali, 7 di picco, 70 euro, vabbè, GBC sappiamo che è abbastanza caro, e quello switching 65 euro, 6, 5, vabbè, più la spedizione, però caspita, 30 ampere, cioè quasi lo stesso prezzo, uno 30 ampere, uno 5 ampere. Ha smesso, me te l'ho detto, ha smesso di ronzare. Sì, Marco, tutto d'accordo quello che stai dicendo, che da uno all'altro, però ci sono, io ho visto su internet, ho visto dei vecchi alimentatori, vecchi alimentatori, quelli da carriera proprio che avevamo prima, anche usati, 50 ampere, cosa vuoi, anche 50 euro, 60 euro, 70 euro. Ah, usato, però Fra, io non, per le esperienze vissute, usato non ne prendo più, né alimentatori, né apparati, né microfoni, preferisco prenderli nuovi. Certo, costano di più, però non sai mai come mai lo prendono, magari è manomesso, o gli hanno cambiato componenti, o aggiustato a scotch e a sputo, non sa mai cosa c'è dentro in quelli usati. E anche su questi forum, tipo Roger K, non c'è da fidarsi, perché a me mi hanno venduto un transverter, ufficialmente era funzionante anche la trasmissione, invece la trasmissione proprio non andava. E li devi avvertire tipo, rifare il pacco, poi a seconda di che tipo è, ti spedisce il pacco indietro, cioè una volta che lui becca i soldi, capito, con la Poste Pay, te lo può spedire benissimo indietro, senza dirti nemmeno nulla, dice sì, mandamelo, è un casino, non conviene, sempre qualche piccola magagna la trovi, e allora a costo di svenarmi, meglio comprare nuovo. Ecco perché Fra, io mi vergogno a vendere roba usata anche. Per esempio a Fabio Master, no. Casualmente ho sentito che gli serviva un baracchinetto per il camper, una cosa piccola piccola. E ho detto, guarda, io ne sto buttando uno, un Lafayette Ares, una cosa obbrobriosa, no, rispetto a queste radio che stiamo usando magari adesso, però funzionante, l'ho provato stasera, ho modulato tutta la sera, è andato bene sia in FM che in AM, e quindi dice quanto ne vuoi, ho detto regalo, a gratisi, mi vergogno a venderlo anche, e c'ho tutto, scatola, scontrino, tutto, tranne i gommini. A proposito, Antonio, i gommini, non mi trovo i gommini, probabilmente li avevo tolti momentaneamente e li ho persi, vabbè, ma due gommini per la staffa già si trovano, no? Già si trovano, è quello il problema, poi a Fabio non mica dicevo di gommini, sono lasciato fisso nel campo, capito? Eia. Cioè, mi vergogno a chiedere anche 20 euro per un baracchinetto del genere, per quanto funzionante, nuovo, no, non c'è un graffio, non c'è un graffio. Che strano, sembra che sia migliorato col tempo. Perché all'inizio era tutto mi, ti faccio un paragone, andavo a modulare, era tutto così, a colpi. È migliorato con gli anni, come il vino. Guarda, io ti dico una cosa, io qua di nuovo non c'ho niente, vero? anzi no, io devo smettere ciò, no. Del resto non c'ho niente di... Ah no, cioè devo smettere i due... come si chiamano? Lasciami dire... Che cazzo si chiamano? Certo, vedete che VHF minoriti, due di quelli, e boom. Del resto non c'ho niente di nuovo, tutto comprato, usato, cosa. L'unica radio nuova che avevo comprato era quella VU, era che poi l'ho fatta perché non mi piaceva, e mi sono rimaste tutte queste qua, tutta roba usata, mi è rimasta, ma tutta funzionata al 100%. È comprata da gente che conosco proprio. Capita, sì, già capita di trovare roba buona. Per esempio io il 140 l'avevo preso da doppio, no? Ma era perfetto, me l'ha fatto vedere, me l'ha fatto provare di persona, capito? E infatti era perfetto, l'ho venduto che andava bene. L'avevo venduto a Benito, che poi vabbè non è più entrato, si sarà stufato anche lui. Ti ricordi che c'era un periodo che non c'era quasi nessuno? Sì, che sta entrando ogni tanto Benito. Forse non lo riconosco io, però il nome è proprio Benito, non l'ho più sentito. Però se che ci abbia magari ruote amicizie alternative, magari su altri canali, boh. Però sul 10, vabbè, sto entrando anche io saltuariamente, fra, perché a me oggi vabbè è stato un caso, però stare tutti i giorni, tutta la sera in radio per me non va bene, c'ho altri interessi, dai. Sempre casalinghi, però altri interessi. Riprendi Antone. è così. Cosa ridere? Sono bene, non ve l'ha benito comunque, ve lo sento. Magari aveva cambiato casa, mi ricordo. Non so se abita a Sassari, se abita a Sonsobu, se abita a Sennori e Pototore. Ma chi stai dicendo tu? Benito Grande Puffo. Ah, ok. Non lo so. C'è il gatto che mi sta scorso. Mamma mia che puzza, il gatto ha fatto la pupù. Bisogna evacuare l'appartamento. Mamma mia! La pupù. Mi sono tagaggato da. Poi vado a calare il cavallo. Ah, cosa un gatto avrei. Gli scoreggi che ti fa sono ti cagano pure addosso. Mamma mia, è una cosa atroce. Poi mi chiedono perché c'ho la maschera antigas. Per questi gatti puzzinosi. L'unico animale che non mi è mai piaciuto. Dimmi fra, aspetta che sta facendo rumore il gatto, dimmi. Ho detto, l'unico animale che non mi è mai piaciuto in casa. Noi il contrario. Da secoli sempre gatti abbiamo avuto, sai, perché il cane, come dicevo l'altro giorno, è impegnativo, sì, è più intelligente anche tu quello che vuoi, però è impegnativo, lo devi portare fuori, poi in condominio secondo me è sacrificato il cane, parlo di cani veri e non cucciucci, quelli tascabili non li considero nemmeno cani, qui ci sono gatti. Vabbè, se avessi un giardino, magari ancora un bel giardino grande dove può correre e divertirsi ancora ci fare un pensiero, ma bene. Dai, sono scarico di batteria, Antonio, riprendi tu. Io adesso mi scaldo una cotoletta, qualcosa mi scaldo e mi accendo la TV finché mi addormento, ok? Vai Antonio. Ma non te che dici a quest'ora? Sono la cotoletta. Non è meglio che una pizza. E sapete un paio di forbici per digerire. Avanti, fra. Guarda Marco, io ti dico una cosa, fai bene quello che hai detto, perché un cane vuole spazio, molto, ma molto spazio vuole. Tenerlo dentro un appartamento lo fai, non lo vuoi bene a quel cane, lo vuoi più male che bene, perché sta male. Deve uscire il cane, deve avere terreno per girare, deve avere. sono animali che sono abituati a camminare, è inutile, è intelligente, è tutto quello che vuoi, però io dentro casa un cane non me lo metterei mai, perché non perché non piace a me, perché lo stai trattando male. Sì, infatti, è sacrificato. Poi anche per farlo girare, cioè in condominio ti costringe a uscire spesso per farlo girare, poveretto, però poi sempre in quattro mura, il giardino è ottimale. Oh, io come gusti di cani sono vecchio stile, a me non piace un pitbull, Rottweiler, a me piaceva il pastore tedesco. O cane lupo, come lo vuoi chiamare, quello era il cane perfetto per me. Anzi, all'epoca, quando ero piccolo, non mi piacevano, sai chi, così, mamma, sono fei. Come si chiama? Quelli che non li vuole più nessuno adesso, che la femmina impazzisce, come si chiama? I Doberman, non mi piacevano. Ma quelli sono animali, cioè sono cani, sì, diciamo che se ce l'hai da piccolino, però il cane è come tutte le cose, dai, è come che ti metti tu un felino in casa, fai una tigre o un leone, che c'ha sempre lo stinto suo. Prima, come si chiama, la volpe, noi chiamiamo un mazzone, la volpe tu la puoi avere, la piccolina, perché io mi ricordo quando ero ragazzo, che abitavo allora tutto bello, dai miei genitori, e il prete che c'era lì, una volta gli hanno dato questo cane, e questo cane era una volpe, era. E lui cosa ha fatto? Da piccolino, ma piccolino lì, l'ha levato, tutto quanto, no? L'ha messo in mezzo al coso dove c'erano le galline. Oh, dai, è diventato un anno, prima si prestava di un lungo bacì. E poi ha ammazzato le galline e se n'è andato. Però nota, è nota l'intelligenza, perché se no l'avrebbero sgamato e punito magari. Prima si è fatto il luogo per fuggire e poi si è mangiato le galline e è fuggito. E ho visto video di volpi, di gente che ha volpi magari in America, sembra un cane mio, se lo tratti da piccolo, però ho visto che tiene leggermente la sua natura selvaggia, cioè lo accarezzi, sì, però è sempre sul chi va là la volpe. Parlo sempre di questi video visti, mantiene un non so che di selvatico la volpe, cioè fino a un certo punto si fa accarezzare, però non bisogna sgarrare, ho visto. Bene, dai, prendete un attimino e mi scaldo qualcosa, dai. Sennò davvero si fa tardi, domani è un bel di commissione, mamma di turchi, un bel di commissione da fare. No, io devo andare solo per farmi il 7:30 e poi la denuncia dei redditi, non è 7:30, non è l'unico, e poi basta. No, allora io devo fare, dunque, ritirare la pensione a mamma, ma poi andare a pagare alcune bollette al tabacchino, purtroppo a Banoa bisogna andare per forza alle poste. Poi in farmacia, poi all'alimentare, poi non so dove, un bel di roba devo fare. Poi quello che riesco a fare faccio, se no già non scappa. La bolletta, se non è domani è dopodomani, già non scappa. E un bel di roba da fare, palle. Poi ancora non è che siamo liberi, cioè sempre giustificato motivo, balle varie, tante cose che a me non interessano. Di andare né in libreria né a trovare congiunti, tanto siamo tutti attaccati di casa, cioè anche prima volendo. Ok, dai, riprendi Antonè, riprendi che sono all'ascolto. Cappa, quindi sei tutta la mattina in giro ormai. Allora, mi faccio un giro anch'io, devo fare la verità. Devo fare cosa anch'io? Tanto ormai si può uscire, grazie a Dio. Vabbè, anche con la preservativo in bocca, ma si può uscire lo stesso. Tanto sono tornato in giro a Sassari, ho visto. Specialmente c'è tutto studio qui. Scusate, dai. Chissà come chiede uno di Sassari, per carità. No, io l'unica cosa bella che ho sentito che si può andare anche a pescare al mare da, con le canne da pesca. A me mi va bene, perché mi preparo le canne da pesca e mi vengo al mare. Avevo tanto per andarci, però questa volta ci vado volentieri. Opa, vedi una di quelle, come si chiama, Game Master, capito? Ti agganci la lenza e poi vai a pescare quando c'è, sta arrivando un temporale. Almeno c'è la luce gratis. No, Antonio, va, c'ho canna da pesca che tu non è che te lo immagini. Leone, tranquillo. Ho due zaini pieni. Ah, io che la pesca ne avevo una bella in legno, ma fatta bellissima, poi mio fratello l'aveva regalata, non mi ricordo a chi. Per caso è riuscita questa storia della, di costruirsi l'antenne con la canna da pesca, cazzo. Guarda, conviene prendere una Game Master, andare via alla spiaggia, capo di tutto, ti metti in portatile e ti metti a modulare, e più peschi, cazzo, ci metti in mulinello e sei a posto. Capo, sì, perché non lo puoi fare, lo puoi fare tranquillamente, ma io... c'ho tutta l'occorrente, c'ho per andare a pescare, c'ho le canne da pesca nuove, addirittura ne ho due che non le ho mai usate ancora, le ho comprate e poi non le ho usate perché è successo questo casino con il virus e non sono andato mai a provarle. Beh, già un virus, con il coronavirus che c'è adesso non è che tu fai a pescare. Si trovano in spiaggia, anche se c'era solo, ti rompono le balle, capito? E discorso, speriamo che aprono, prendono a pescare meno la gente, si distrae, diventa meno nervosa, io mi sono accorto dallo spimmi, le birre che stanno sparendo, ma cazzemi, ogni settimana, tappini di casse di birra di quelle da 66 sparite, cazzo, la gente sta cominciando a diventare alcolizzata, perché non li può più stare in casa. Già un grido. No, forse non mi sono spiegato poco fa, Antonio, non mi hai capito tu. Si può andare a pescare adesso. Conte ha detto che possiamo andare a pescare. La pesca si aspetta. Sia in barca, i professionisti, sia hobbistica in barca, sia sub e sia dalla spiaggia con la canna da pesca. Si può andare. Oh fra, io mi sono dato la zappa sui piedi, perché ho canna da pesca, ma i mulinelli sono tutti mezzi distrutti, perché anni che non li usano. Io potevo organizzarmelo da prima, cioè avevo anche pensato un mese fa di comprare mulinelli nuovi, beh non l'ho fatto e adesso non ho neanche la scusa di andare a pesca con l'attrezzatura già pronta. Colpa mia, devo cambiare mulinelli, lenze, mi dovevo riattrezzare, solo le canne ci ho, ma robetta sempre fibra di vetro, roba commerciale, porca miseria. Vabbè, vai Antone. Marco, fai una cosa, ti costruisci la Game Master e poi vai lì a pescare. Tipo, ti agganci il portatile, quando aspetti che arrivi il pesce. Così se arriva a temporale, è meglio che non ti fai trovare in spiaggia. Siccome non li temo poco i fulmini, quando sei in zone aperte che non c'è riparo nemmeno, mamma mia. Antone. Tanto è pieno, tutti quanti stanno costruendo queste antenne con la canna da pesca, guarda. È meglio fare così, guarda Marco. Se vuoi andare bene, mi peschi da una parte o peschi dall'altra. O se non ti pescano. Bello arrostito. Vieni fra. Allora, stai confondendo delle cose, stai confondendo. Allora, le canne da pesca che fanno le antenne e fibra di vetro è diversa dalla fibra di carbonio. La fibra di carbonio attira i fulmini, mentre la fibra di vetro no. Sì, lo so, quello lo so. Ma siccome parecchia gente ci mette il cavo da strato nella canna da pesca, quello ti voglio dire a me, hai capito? E c'è anche la punta. È per quello che te lo sto dicendo, hai capito? Se non si lascia il cavo all'interno della canna da pesca, lo mettono all'esterno. Quindi io, se uno vuole andare a pescare, cosa fa? Fa due in uno, volendo. Capito? Se potessi andare a quel baracchino in spiaggia, usa quella, che in più la usa per pescare, ci mette il mulinello e siamo a posto. Ah, ecco, la usa come la tenda. Allora va bene. Mi capita. Allora è tutto un altro discorso. Proprio io pensavo che tu stavi dicendo che arrivano i fulmini ed è un casino, no? No, perché le antenne che costruiscono le canone da pesca, tipo canone da pesca per come antenna, sono in fibra di vetro, mentre le canone da pesca proprio sono in fibra di carbonio, tipo quella che ho io almeno. Poi ne ho una che non è canone da pesca, è il coso del COP, per recuperare il pesce in mare, che è 6 metri, cioè va 6 metri, bello grosso. E quello è lo stesso, tutto in fibra di carbonio. Io già lo so, già la fibra di carbonio è omicidiale, attiva i fulmini e cosa, ma quello già lo so anche io, lo so già da prima. Allora adesso stanno costruendo queste antenne, capito, con filo di rame dentro, quindi a un certo punto se ci lasci una canapesca originale, che ci sono quegli occhielli, gli agganci il mulinello, capito, sotto, in più c'è l'LG58 che dopo la bobina, quindi ti puoi agganciare, puoi andare a pescare tranquillamente con anche col portatile, per dirmi, per passare l'ora. La usi come canapesca e anche per parlare a baracchino, solo che sei un confiere, se nel caso ci sia qualche temporale, se no ci rimane attaccato. Non è che rimani attaccato, sempre capita che prendi il pesce e esce già cotto. Così è Marco. Eia. Eia. Mamma mia. Beh, io poi avevo perso la passione per la pesca, perché vabbè, tendevo ad andare di notte. C'era un gruppetto di persone, però sempre un'umidità bestiale, sotto golfi, contro golfi, noi andavamo anche al di fuori delle sate, troppa umidità, troppa, e salgono luci, lucette, torce, insomma non avevo abbastanza passione, e infatti non so se la riprenderò, boh. Non c'è nulla di pronto da mangiare, cioè o mi metto a cucinare all'una di notte. Oh, che paranoia, guarda. Fai una cosa, guarda, apri il forno, lo accendi, chiama il gatto e ce lo fai entrare dentro, va con i gatti, chiudi il portello, quando è cucinato lo so io. Ehi, deve essere buono anche il gatto, ma chi l'ha assaggiato dice che non è male il gatto, e immagini, non ci avrei mai il coraggio, almeno non credo, no, poi va, mi fa impressione a me scogliare l'animale, pucci, non potrei mai fare il cacciatore, lo sai, perché non riuscirei a sparare agli animali, a meno che non sia per difesa, proprio per proteggere la mia vita. Ma ti dico una cosa, che c'è anche, vabbè, gli animali esistono per mangiare, più che altro, ma non tutti, certo, come certo non un gatto. Io, almeno mi hanno fatto credere di averlo mangiato, però non lo so, se l'ho mangiato. Però se era gatto era buonissimo, che a me l'hanno detto che era gatto, poi... Se era lui era buonissimo, ma non gatti di quelli di casa che domestici, gatti selvatici, queste cose qua. Però io l'ho mangiato, quando l'ho detto, dice, quello era un gatto, a me era un curioso, la giurista. Comunque se era davvero gatto il sapore dovrebbe essere tipo coniglio, no? Guarda, più o meno è la stessa cosa, dovrebbe essere, penso. E tanto la situazione non cambia della posizione. Mi, adesso la chiamo. Flo, aio in forno, aio, fai un sacrificio per il padroncino tuo, io mi sta guardandomi in modo strano pure, magari capisce, eh? Non si possono esprimere a parole, magari lo capiscono. No, è così, è come il cane, lo stesso, i gatti sono loro intelligenti, sono. No, ma un animale di casa, per carità, non lo farei neanche io. Guarda, ti dico una cosa, io ero piccolo, mio padre aveva un agnellino che ci metteva presso, era piccolino, in campagna, ci metteva presso da tutte le parti. Poi è arrivata Pasqua, il babbo ha detto, dice, ma cosa facciamo? Ma siamo cosa? Non la cerca, comprare un altro dal pastore. Cioè, pensa che quando mamma era piccolina, no? Giovane, adesso non so l'età, quando era bambina, e lei e mia zia Paola, no? Hanno avuto in casa, prima di cambiare casa, una lepre. Questa lepre era una sagoma, faceva cose che secondo me comunque gli facevano male. Intanto se le mangiava, tipo si beveva il caffè, tu glielo davi freddo, zuccherato, se lo beveva con la linguetta, no? Oppure si mangiava il cioccolato, cioè cose incredibili. E poi se tu gli agitavi un panno, faceva tipo corrida, arrivava correndo e dava la testata al panno, guarda, era un bijou questa lepre. Poi purtroppo hanno dovuto cambiare casa, l'hanno dovuta dare a uno di Florinas, insomma, perché sono passate la Florinas a Sassari, capito? E se l'ha mangiata? E poi se lo saranno mangiato quella lepre, quelli del paese, dai. Guarda che io quando sono andato a lavorare tanto tempo fa, che quando ero 87, sono andato lì alla... vedo che era bussi, a fianco ai pompieri, ce l'hai presente? Lì c'era la facoltà di veterinaria, c'era un cappretto, c'era, quando sono arrivato lì, e mi fa questo birello, era birello. Dicatore dice, sei nuovo? Io sì, sono nuovo, me l'ho assunto da poco, gli ho detto, guarda, dice, non ti spaventare, mi ha detto, tanto che abbiamo qui un cappretto che c'è la maniera di quando vede qualcuno nuovo di partire con la testata, qualcosa con le corna, capito? Però dice non ti fa niente, vabbè, allora entro, cazzo, comincia questo cazzo, l'ho fermato con le mani. Poi mi fa, se faccio fare una cosa, mi ha detto, dov'è? E che cosa gli ho detto allora? Dice, guarda questo cappetto qua, si è acceso la sigaretta in bocca. Ha fatto due tiri, ha preso di adatta, accesa, in bocca al cappetto, se l'ha girato il cappetto, appena se l'ha mangiato, ma se l'ha mangiata la sigaretta, accesa, ha fatto il filtro. E cavolo! E non gli brucia la bocca. Che bocca c'hanno? Cosa c'hanno? La bocca d'amianto? Non lo so, ma si mangiava la sigaretta accesa. Quindi ogni mattina quando andavo lì, tanto che sapevo il gioco ormai, quando lo chiamavo veniva all'ingresso proprio nel cancelletto, capito? Tiravo la sigaretta, gliela accendevo, vai a dire. E poi, caspita, se un uomo mangia sigaretta, ingerire tabacco mi pare ti venga una sigaretta singola, non lo so, dovrebbe dare febbre, niente ne sai fra. Vabbè, io non l'ho mai mangiato, ha detto la verità, non lo so, non ho mai sentito che fa male, ma d'altronde nell'antichità dicevano che il tabacco lo compravano solo per masticarlo, evidente che lo ingoiavano anche. È vero, c'era il tabacco da masticare, però credo che sputassero poi il liquido, come ai tempi dei cowboy, no? Poi c'era il tabacco da fiuto, che praticamente sentivi l'odore bello e a meno che la nicotina non ti prendesse attraverso le mucose del naso, tipo cocaina, sì, nei film si vedeva questo trucchetto, tipo uno che voleva alla visita militare far vedere che aveva febbre, che stava male, si mangiava sigarette, gli arrivava sto febbrone. Poi i film, vabbè, dicono tante fesserie, bisogna vedere se è vero, ma probabilmente un fondo di verità c'è. Ui, mamma mia, dai, riprendi Antonella, sto pensando a domani. Oh, si stava bene questi giorni di ferie, tappati a casa, il contrario sto dicendo, anziché voler uscire. Cazzo, questi giorni di ferie, siamo stati 2 mesi in galera, ormai. Cazzo, domani è peggio, quanti credi che sia meglio? Se poco a poco aumentano i casi a Sassari e torniamo come prima, capito? Ma sono scusante, e chiedo tutti di nuovo, quindi inutile. Ormai ci dobbiamo aspettare me, i cinesi vengano a Sassari e si comprano tutti i negozi che ci sono, cosa di parrucchieri, fanno 100 massaggi, faranno. Però è tutta la scena. C'è quel pericolo che molti negozi che andranno in fallimento ci saranno i cinesi pronti con i soldi, ma dove li trovano tutti questi fondi? O sono soldi della mafia cinese? Qualcuno ipotizzava che non fosse anche questa cosa del virus, una manovra proprio per mandare in crollo l'economia italiana e poi acquistare tutto quello che si può acquistare, tutta la roba che andrà in fallimento se la compreranno questi cinesi qua. E buco sull'onfimi, vai Fra. Ma secondo te i cinesi, tutto d'accordo, sono cinesi, queste cose qua, ma secondo te in Cina ci sono molti ricchi che ci hanno molti soldi? Cina è la mafia cinese che compra tutto quanto queste cose, poi prende a te e dice Marco tu mi devi fare da padrone in quello stabilimento lì, devi fare. Poi prende un altro, fa padrone là, fare un altro, fa il nome di quello. I nomi servono per coprire, per non pagare neanche le tasse, perché loro cambiano nome ogni tanto. Quando scade il contratto, poi chiudono e cambiano il nome e continuano il lavoro. Per quel motivo lì, quindi secondo me c'è la mafia cinese che toglie i soldi. A chi si muove? Un povero non ce la fa a prendere campanelli del genere, a rischiare tutta questa merce, mica bisogna di nome. Poi questa attività mi sembra che siano anche per ripulire i soldi sporchi, mi. Capito, c'è un'attività poco lecita, può essere prostituzione, droga, perché magari a Sassari non so se lo facciano questi cinesi, però poi i soldi sporchi, no? Che devono giustificare, li investono in negozi, è proprio l'arte di ripulire il denaro sporco. Capo, tu prendi quello che c'è in Viale Porto Torres, quello grosso, che c'è sulla destra, quello lì mica cinese il padrone, mica italiano, cinesi ci lavorano, e anche italiani adesso. Ma quello lì, il padrone proprio, non è cinese, è italiano. Ah, il proprietario è italiano, no, non lo sapevo questo. Guarda, mi ha ricordato quella serie televisiva, no? Breaking Bad, dove questo chimico praticamente fa il narcotrafficante, o meglio, lui la produce, no? Per conto della mafia messicana, però questi soldi poi li deve ripulire, no? Allora si è preso un autolavaggio di ghisi americani, no? Quelli autolavaggi enormi, proprio per è un'attività di copertura, per ripulire i soldi sporchi. Allora, è così Marco, è così, succede così, quello succede, aspetta che mi sta salendo di nuovo la situazione, scendi giù, no? Ok, va bene, così, aspetta, da 80, no, va bene, ma è così. Secondo me la mafia cinese, come va? Adesso è arrivata a Sassari per dire, no? Dice, beh, apro questo, prendo questo campannone, faccio questo, compro tutto questo e mando avanti un'attività, via. E ci mette a comandare quello che a lui gli conviene. Lì io so, perché un giorno stavo parlando con una persona e mi ha detto, ma il padrone ha giocato, cos'è, i cinesi sono il mio, però padrone è italiano, solo che se vedi dice vendono anche roba di marca, vendono qua, ed è vero, come attrezzatura di meccanica, queste cose qua, vendono roba di marca anche lì, vendono, ed è vero. Sì, ho visto, ho riconosciuto marche italiane per quanto riguarda anche accessori per auto, tipo lampa e anche altre cose. Lubrificanti vari per macchina, anche non per macchina, CRC, roba del genere. Dai, insomma, alla fine, Antonello, riprendi. Praticamente non mi sono cucinato niente, mi sa che mi mangio un pezzo di pane e una scatoletta di tonno, ho cenato, e tanto è troppo tardi per cucinare. No, ascolta, ma non ce n'è due mattoni? No, terminati, due mattoni imbottiti. Poi a parte mattoni io digerisco tutto, anche alle ore più impensabili, posso cenare alle 4 di nozze, digerisco tutto, ho uno stomaco da struzzo. Beato te. Mangiati due toast, mangiati, ti metti cipolline, ti metti funghi, ti metti un bel po' di sottacetti, così ti fa bene. Poi lo vai a dire, appena ti svegli cominci a sentire alle 8 del mattino, quindi è parte in bagno, se trovi il bagno occupato ti conviene andare in terrazzino. Invece Antonello mio, ogni tanto tu Antonio non ti lamenti e dice ho mangiato questa cosa, sono stato dolore tutta la notte, pure accussi, capito? Antonello si mangia riso bianco, dice sono stato male, mi ha fatto male, tutta la notte accussi, a diarrea, com'è possibile Antonello? Tu sei l'opposto mio. Vabbè, io sai che mangio schifezze, le pizze di Ruspi che non servono a niente, per dire, ti tirano mal di stomaco, no? Poi cosa ti posso dire? I tortellini, la stessa unica cosa, il cavallo vedi, lo uccidisco benissimo. A volte anche, vabbè, lo stomaco che ho io ormai a 50 anni, non è come quando dici che c'è una persona di 20-30 anni che si mangia gelato dopo che ha fatto qualche pranzato, per dire. Ormai se io mangio gelato dopo che ho pranzato ci rimango secco, ci rimango come minimo. È cambiata la prassi, capito? Quando arriverai tu a 50-60 anni, lui vedrai i colpi che prenderai. Antone, io ne devo fare 49 ad agosto di anni, non sono più trentenne, magari a essere ventenne o trentenne ancora, però il tempo passa purtroppo, e qualche acciacco già c'è, però ancora per l'alimentazione posso abusare ancora, poi si vedrà, vai Franco. Antone, una domanda te la posso fare? Sì, facci con comodo. Il fatto che io bevo anche roba gasata, lanciata, hai capito, ti compia lo stomaco, quindi ha tentato di avere il digestivo adesso. Poi vabbè, dove vuoi andare adesso? C'è poco da digerire, cosa faccio? Dal bagno, al cavato, dall'altro lato al bagno, faccio avanti e indietro, avanti e indietro, almeno prima si poteva trombare, adesso invece neanche quello. E allora se vuoi trovare, ma se non è illecito, no, poi ti dico i miei. Quanti anni hai? 58, caro. Allora, io ho 66 anni compiuti, eh? E se venne in banca l'Eurodrancio, tipo Marco, l'Eurodrancio, non me ne fotte nulla. Il mio problema è solo una cosa, che tutto quello che ci butto, poi si vede, che mi ingrassa subito. Sì, vabbè, lo so. Anch'io mangio sempre questo, me. Non è che non mangio, a voglia. A cavolo mi sono mangiato quando sono sceso a Giovanna, il giorno di Pasquetta, mi sono mangiato un chilo di sardine da solo, me. Figurati. E non ho neanche cenato, non sono d'altro. Poi mi sono bevuto una birra, tutto quanto la sera. Perché gonfia, non sta la birra gonfia, quando sei seduto e gonfia la birra. Non è che c'è la sera, stavo benissimo, la verità, Ho fatto delle sardine freschissime, le ho fatte di lusso, poi l'ho comprata anche l'altro giorno addirittura. E ne ho comprato 2 kg e ne ho lasciato un chilo l'ho fatto, ne ho lasciato mezzo chilo a Giovanni, ho detto fa la cosa, ho detto te lo mangi tu, gli ho detto, poi ho detto dai a mio fratello, ho detto così, ho detto mangiate assieme. Così ho fatto, però l'ho fatto insieme a Giovanni, la verità. Cioè, mi diverto, adesso mi piace parecchio il pesce, mi guarda che lo mangiavo prima, il pesce prima non lo sopportavo, per dire, mangiavo carne, bistecche, spuntini, eccetera, eccetera, adesso mi piace molto il pesce, la verità. Fadulo. No, quello con l'altezza del culo, già lo sai.